l'acqua, dove vedi adesso che c'è quel chiuso lì, veniva attinta dal fiume, veniva immessa dentro questo canale qua, cadeva sulle ruote e giravano le ruote. Venite qua che vi faccio vedere il canale dell'acqua. Che bello! Questo era il canale dove che correva l'acqua, no? Perché l'acqua veniva giù da quella, lì c'era un canale, veniva giù l'acqua, c'era un piccolo canale di legno, andava a sbattere sulla ruota e dopo la faceva girare questa ruota. E qui c'era l'asse della ruota, che si chiama anche fuso, vero? O sbaglio, fuso. Comunque era l'asse della ruota. A furia di girare, voi vedete che qui il sasso che si è consumato, no? Infatti questo consumo qua è dovuto lì all'attrito dell'asse che girava contro il sasso. Ce n'erano tre di ruote che poi trasmettevano il movimento dentro alle ruote poi del mulino. Il mulino, mi diceva lì il signore, che ha funzionato fino al 1880 e dopo è stato dismesso, insomma. Prima, ante questa data, era uno dei mulini principali, penso io, di Caliano, e poi è stato dismesso, insomma.